A nossa terra, a nossa vida, a nossa responsabilidade. Terra Viva. Ecco il vincitore del concorso europeo Un mondo come piace a te, bandito dalla Commissione per premiare le migliori soluzioni per contrastare i cambiamenti climatici. Qui, perto di 400 ettari di terreno, tornano è il progetto portoghese Pascoli rispettosi della biodiversità, promosso dall'organizzazione Terra Prima, con il coinvolgimento di più di 1000 agricoltori portoghesi, ai quali sono state fornite miscele di sementi formulate per terreni specifici che contribuiscono ad accrescere la resilienza del suolo alle stabilità dell'ambiente, con consistenti e comprovati benefici nella riduzione delle emissioni di CO2, dell'erosione del suolo e del rischio di incendi boschivi. We have the solutions and building blocks to create a world we like. Questo progetto è un esempio perfetto di come soluzioni pratiche a favore del clima possano anche far risparmiare denaro e generare crescita e occupazione, ha detto Connie Hedegaard, commissaria responsabile della politica dell'Unione Europea Azione per il Clima, annunciando il vincitore a Copenaghen. Parole con cui la commissaria ha riassunto il senso stesso del concorso. Individuare soluzioni pratiche, innovative, dai costi sostenibili, già esistenti in Europa, ed esaltarle, portarle a conoscenza del pubblico e degli Stati membri, grazie ai canali informativi della Commissione stessa. La varietà delle proposte arrivate alla Commissione per contrastare i cambiamenti climatici è chiarissima nei progetti premiati. Secondo classificato è stato l'Airport Carbon Accreditation, progetto europeo che riunisce 75 aeroporti decisi a rendersi più efficienti nell'uso dell'energia e a ridurre le proprie emissioni di CO2. Terzo classificato, le case dell'impresa Dvorak Polski, abitazioni polacche tradizionali a basso consumo energetico e basso costo. E poi ci sono stati i premi nazionali. In Bulgaria ha vinto un'iniziativa di compostaggio nelle comunità locali. In Lituania un progetto di riduzione degli sprechi. In Italia il sistema di costruzione di un'impresa lodigiana, denominato Easy Home 4EQ, applicato alla realizzazione di due palazzine di Lodi di prossima ultimazione. Francesco Laera è l'addetto alla comunicazione della rappresentanza italiana della Commissione europea. Abbiamo avuto molti candidati dall'Italia, quindi a sintomo anche del successo che il concorso ha avuto in Italia. Tantissimi settori, a partire dalle università, un gruppo di studenti aveva proposto un tema per aumentare l'efficienza energetica delle università tramite le stampanti, tramite un sistema anche di ventilazione all'interno dell'università per recuperare l'energia. Altri progetti miravano a un riciclo più efficiente dei materiali plastici che potevano essere poi appunto rimessi nella produzione industriale. Quindi i settori erano molto diversi, non solamente edilizia, tutti però caratterizzati da soluzioni pratiche in un contesto urbano. Il vincitore italiano 4EQ proponeva un esempio di abitazioni sostenibili, un esempio di progetto già in fase di esecuzione avanzata. Proponeva soluzioni alla portata di tutti per migliorare l'efficienza energetica delle nostre abitazioni. In più, un altro fattore considerato molto positivamente dalla giuria è che è un progetto che contribuisce a creare lavoro investendo nelle tecnologie sostenibili. Alla presentazione del vincitore italiano presso la rappresentanza di Milano c'erano tutti, ovviamente, dalla cooperativa Santa Francesca Cabrini 2 di Lodi, promotrice del progetto, alla CRB Impresit, che l'ha realizzato, a Legambiente, che gioiva per il successo di un'impresa che ha in convenzione associativa, fino a Casa Clima, come ente di certificazione, e all'assessore all'urbanistica di Lodi, Simone Piacentini. I complimenti sono doverosi ed è motivo di orgoglio per un'amministrazione avere questa possibilità di presentare delle case che hanno proprio come logica di fondo l'efficienza energetica, la sostenibilità e l'etica e alla fine la qualità, che è anche un aspetto importante. Sicuramente l'economicità dell'aspetto è anche un altro pregio, quindi sono questi i 5 punti vincenti che anche sono stati presentati. È sicuramente motivo di orgoglio e sicuramente è un motivo di portare avanti quello che è un pensiero, quello che è una necessità relativamente all'efficientamento energetico, sia esso sul garantire la costruzione nuova già pensata per avere un'efficienza energetica, quindi un basso consumo, addirittura in questo caso un consumo zero, e sia portare avanti un'opera di sensibilizzazione sulla riqualificazione invece del patrimonio esistente. Proprio nello spirito di dare visibilità alle soluzioni proposte dai vincitori, a Roma sono stati affissi in questi giorni dei manifesti che pubblicizzano l'impresa lodigiana. Mario Borsatti, amministratore unico di CRB Impresit. Che effetto vi fa vedervi su questi manifesti che la Commissione ha preparato per voi? L'ho detto prima, è un sogno che si realizza. È un sogno che è un po' il manifesto, che è il titolo del manifesto che noi abbiamo dato. È riconoscere che la nostra visione è giusta, siamo sulla strada giusta. È una visione che tra l'altro adesso esce insomma ben al di là dei confini nazionali, no? Arrivando fino a Bruxelles. Questi primi così settimane, da quando avete avuto questa notizia, diciamo anche i contatti che avete avuto come impresa sono aumentati, sono diversi, sono persone più interessate? Sì, confermo. Devo dire che la piattaforma di questo premio ha consentito una maggior, ma direi deciso aumento di quelli che sono i contatti e gli interessamenti delle persone. E questo veramente va esattamente nella direzione che noi speriamo, perché più si diffonde la nostra filosofia, che spero quanto prima non sia più solo la nostra, ma sia di tanti altri come noi, è solo un bene. Ma come contribuisce questo progetto a contrastare i cambiamenti climatici? Per la Commissione, prima di tutto grazie all'efficienza energetica garantita da Casa Clima Gold. Casa Clima è un ente certificatore della provincia autonoma di Bolzano. Non tutte, ma ormai molte regioni italiane impongono che le nuove case siano più rispettose dell'ambiente e meno energivore. Anche la Lombardia lo fa. Il protocollo Alta Tesino però è riconosciuto come il più severo. Giorgio Secchi, presidente del network Casa Clima Lombardia. Per poter certificare una casa in protocollo Casa Clima, innanzitutto bisogna predisporre un progetto esecutivo che sia tale però. Quindi la progettazione è alla base di tutto il discorso del protocollo. Quindi c'è una progettazione molto dettagliata, si arriva a particolari anche in scala 1-1 per certi dettagli. Una volta definita la progettazione la si manda in agenzia Bolzano, che la verificano attentamente tutta, progettazione con il calcolo che viene fatto dell'efficienza del fabbricato e dell'efficienza complessiva, verificano tutto. Una volta che hanno verificato il calcolo, danno l'ok alla realizzazione e danno la possibilità di poter esporre il cartello col logo Casa Clima. Contemporaneamente viene nominato un auditore loro, pagato da loro, che verrà successivamente, durante l'esecuzione dell'opera, a fare delle visite in cantiere per verificare quello che è stato fatto e fa dei rapporti, degli audit all'agenzia. Per poter avere la certificazione deve essere fatto il Blood Door Test, che è una cosa importantissima per quanto riguarda il discorso a casa prima. Blood Door Test è praticamente la verifica, la tenuta all'aria dell'edificio. Viene applicata una macchina su una finestra oppure sulla porta d'ingresso e si mette in pressione o depressione l'ambiente. E deve avere dei risultati, che sono dei risultati che Casa Clima dà. Se il risultato è dovevi avere uno, perché in classe A devi avere un massimo di uno come N50 di permeabilità all'aria, e A invece, non so, 1.30, invece di avere un edificio che poteva essere certificato, non so, con 20 kW, si peggiora la prestazione dell'edificio. Viene mandata tutta la documentazione, quindi tutte le certificazioni dei materiali impiegati eccetera eccetera, vengono mandate una serie di documentazione fotografica tra virgolette infinita, perché tutti i particolari che sono stati realizzati devono essere fotografati, e per esempio gli spessori degli isolanti devono essere fotografati. Fatto questo, l'agenzia rilascia la sua certificazione. Oltre all'efficienza energetica, la Commissione loda l'adattabilità a climi e terreni diversi di 4EQ, la sua flessibilità interna, i prezzi. Insomma, la sostenibilità nella visione di Mario Borsatti. La sostenibilità, secondo me, non è solo fare delle cose sostenibili, belle per l'amor del cielo, ma bisogna creare questa azione, questo movimento che porti allo sviluppo dell'intelletto umano, per far sì che l'uomo sia custode e non padrone del creato.